Nel marzo 22 apprendevamo con favore che una libera del Consiglio Comunale di Bologna poneva definitivamente chiusa un'epoca, mettendo uno stop alla vendita del patrimonio immobiliare ERP da parte appunto del Comune, che dal 2013 invece aveva venduto circa 300 immobili tramite trattativa privata. Oggi però ci troviamo a 2 anni di distanza da quella delibera a un bando aperto lo scorso 27 marzo con un'asta pubblica che prevede la vendita di 13 immobili ERP sul nostro territorio, senza contare poi che questa delibera degli altri comuni della regione non è mai stata approvata e la svendita appunto continua per tutta la regione. La nostra città, l'emergenza abitativa attanaglia la nostra città ormai da anni, e quest'anno abbiamo più di 6.000 nuclei familiari in attesa di una casa popolare che risultano idonei nell'ultima graduatoria, e mentre invece dall'altra parte solamente poche decine di alloggi ogni anno vengono assegnati. Dall'altra, un altro dato è sono 1.500 gli sfratti previsti per il solo 2024, condivisi tra morosità incolpevole e finita locazione, mentre la possibilità di reperire un alloggio nel mercato privato è quasi diventato un miraggio per la maggior parte dei nuclei familiari che perlomeno hanno un minore o sono migranti. In questo quadro drammatico che ho appena elencato come PLAT, piattaforma di intervento sociale, abbiamo aperto un piano di pressione sulle istituzioni e allo stesso tempo stiamo lavorando in prima persona alla stesura di una legge regionale sull'autorecupero, di cui la nostra regione è ancora sprovvista, al contrario di regioni come la Toscana o il Lazio. Solo con la legge regionale sull'autorecupero si avrebbe la possibilità di assegnare centinaia e centinaia di alloggi ERP, quindi edilizia residenziale pubblica, o che oggi sono sfitti come questi che sono in vendita in questo bando, poiché i costi di ristrutturazione sono insostenibili per l'ente, e sarebbero possibili assegnarle a famiglie che dovrebbero farsi carico economicamente alla sistemazione dell'immobile, richiedendo poi uno scomputo del costo di ristrutturazione sugli affitti successivi. Quindi chiaramente aprendo la possibilità di mettere a valore tutto il nostro patrimonio pubblico che in questo momento è sfitto. Oggi appunto abbiamo voluto fare questo presidio qua davanti a questi appartamenti, questi 4 dei 13 appartamenti in via Grazia dell'Edda al pilastro, per ribadire che chiaramente che le alternative alla svendita del nostro patrimonio di diritto ci sono e devono essere prese in esame immediatamente. E la proposta che facciamo noi è aprire un grande piano regionale sull'autorecupero. Siamo pronti noi a metterci anche in prima persona a disposizione, mettendo le nostre competenze, le nostre conoscenze a servizio di questo piano dell'autorecupero di immobili che potrebbero essere appunto messi a disposizione a centinaia e centinaia di famiglie. Abbiamo dimostrato in via Carracci cosa può fare l'autorecupero, anche in via Carracci erano 24 appartamenti nel piano di alienazione. Abbiamo dimostrato che attraverso l'autorecupero le competenze che quello che abbiamo potuto fare hanno portato alla ristrutturazione, alla sistemazione di 24 alloggi per 110 persone che oggi vivono all'interno di queste case ristrutturate. Hai ricordato giustamente lo stop alle vendite, alle alienazioni con una delibera comunale, ma come mai allora questi alloggi sono messi all'asta? Noi crediamo che facciano parte dell'ultimo piano di vendita del patrimonio di alloggi che stanno all'interno di palazzi in cui la proprietà era diventata minoritaria. Un esempio è questo: in via Grazia dell'Edda sono rimasti solamente 4 appartamenti Acer su un totale di 14 di proprietà ancora dell'ente pubblico. Chiaramente questo è solamente quello che avviene a Bologna. Se guardiamo invece il piano regionale, tutte le altre comuni della regione sono assente una delibera che blocca la vendita del patrimonio pubblico. Quindi è chiaro che il problema è, oltre ad essere bolognese, è quanto più e si aggrava molto di più se andiamo a vedere i comuni dell'area metropolitana o di tutta la regione. Quindi è questo il piano su cui crediamo sia doveroso iniziare a lavorare, e per queste ragioni chiediamo appunto l'apertura di una discussione regionale in cui tutte le realtà che si occupano di abitare possano partecipare per la definitiva approvazione della legge sull'autorecupero, perché pensiamo appunto che lo svento del patrimonio in questo momento di emergenza, di crisi abitativa, di disagio abitativo sta sempre più forte, si fa sempre più sentire, sia una cosa che vada immediatamente e definitivamente, speriamo, bloccata. Quindi l'autorecupero da un lato potrebbe anche aiutare gli enti locali che non hanno risorse per ristrutturare il proprio patrimonio, dall'altro darebbe risposte anche sul tema abitativo. Assolutamente, le leggi regionali sull'autorecupero dalla regione Lazio, dalla regione Toscana stanno dimostrando questo, che l'immenso patrimonio sfitto di proprietà pubblica e quindi nostra, di tutti, che oggi appunto non porta alcun vantaggio né nelle casse degli enti gestori né nella possibilità appunto di far fronte all'emergenza abitativa delle migliaia e migliaia di nuclei familiari in attesa di casa popolare, potrebbe invece essere messo a disposizione. Quindi una legge regionale permetterebbe questo, di avvalorare il nostro patrimonio, di dare la possibilità alle famiglie che molto spesso hanno anche uno stipendio, potrebbero permettersi dei lavori di sistemazione. Faccio un esempio molto stupido e banale che è avvenuto proprio in questi giorni: un alloggio di edilizia residenziale pubblica pubblica che non poteva essere assegnato perché mancavano le maniglie delle porte. Chiaramente gli enti gestori devono sottostare a dei regolamenti per l'assegnazione, ma questo comporta molto spesso che ci priviamo di un gran parte del patrimonio solamente per delle piccole cose che potrebbero essere sistemate con poche centinaia di euro che le famiglie potrebbero farsi carico per dopo avere uno scomputo economico sull'affitto nei mesi successivi.